Ok, e abbiamo i prossimi minuti, non li quantifichiamo, per esprimere, ok, quello che c'è nel nostro cuore. Io oggi non voglio essere l'unica a predicare, ok? Non voglio essere l'unica a parlare, a esprimere quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Chiaramente lo farò un po' di più di quanto vorrei lo faceste anche voi insieme a me. Facciamo questo patto? Oggi parleremo proprio di un patto e quindi incominciamo già con questo tipo di concetto. Quindi, per piacere, Chiesa, non addormentarti, eh? Per piacere, esprimi anche con un applauso, un amen, un'esclamazione, quello che c'è nel tuo cuore, ok? Quindi se sei d'accordo con quanto andremo a leggere, ehi, dimmelo, ok? Così possiamo predicare insieme oggi. Cioè, se ce la posso fare io, penso che ce la possiamo fare tutti quanti, è vero? Bene, allora io oggi voglio iniziare con in una maniera un attimino diversa. Voglio introdurre la riflessione, insomma, che andremo a fare insieme, riportando le parole di un film molto celebre, abbastanza famoso, un po' vecchiotto, del 92. E questo film si intitola Io speriamo che me la cavo. Chi l'ha visto? Ecco, questo diciamo rivela la tua età. E chi non l'ha visto, insomma, siete giovani, è bello, però io ve lo consiglio perché è un film che praticamente tratta della vita di questo professore che per sbaglio viene trasferito, invece che in una scuola a Torino, viene trasferito in una scuola in un quartiere molto disagiato di Napoli. E quindi si ritrova, no, a lavorare con questa scolaresca che presenta tanti problemi, tanti disagi, tanto bisogno di affetto sicuramente. E insomma, dopo le prime difficoltà, questo professore trova il modo di lavorare bene con questi alunni. E l'ultima scena praticamente presenta quello che è il tema, l'ultimo tema che uno di questi alunni fa. Ora l'andrò a leggere, non è la Bibbia, si parlerà di purgatorio, si parlerà di limbo, non è la Bibbia, non crediamo né al purgatorio né al limbo, è una bella introduzione per catturare la vostra attenzione, non più di questo, ok? Ok, questo è molto importante specificarlo. La citazione incomincia così. Quale parabola preferisci? È la traccia. Svolgimento. Io la parabola che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra. Al centro, quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi. E Dio avrà 3 porte, una grandissima, che è l'inferno, una media, che è il purgatorio, e una strettissima, che è il paradiso. Poi Dio dirà: fate silenzio tutti quanti, e poi li dividerà, uno qua e uno là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e dice: uè, dove vai? Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corzano si farà in 1.000 pezzi. I buoni rideranno, i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. E io speriamo che me la cavo. Mi è venuta in mente questa storia, preparando il messaggio per questa mattina. E io credo che troppe volte, davanti alle circostanze della nostra vita, abbiamo questo approccio. Ma io speriamo che me la cavo. E questa frase, nonostante sia retta dal verbo sperare, non ha niente a che vedere con la speranza, quella vera. Piuttosto esprime un'incertezza, piuttosto esprime una paura per il futuro, esprime quasi un fatalismo, ma io, speriamo che me la cavo. E spesso noi confondiamo l'avere speranza con una sorta di rassegnazione. Ci è capitato? Confondiamo l'avere speranza con una remissione passiva che ci porta a dire vabbè, come Dio vuole, e vabbè, speriamo bene, e, non lo so, non dipende da me, speriamo. E quindi usiamo questa parola, questo verbo, sperare, speranza. Ma è questa la vera speranza di cui parla la Bibbia? Io non penso proprio, che sia così. E oggi io voglio parlare proprio di quella che è invece la vera speranza, quella biblica, quella teologica, quella che Gesù è venuto a darci. E voglio cominciare subito a predicare. Voglio cominciare subito dandoti la buona notizia, che se devi dimenticare tutto il resto che noi diremo, e spero di no, voglio che non ti dimentichi questo, che c'è speranza. Amen? C'è speranza perché c'è Gesù. C'è speranza perché Gesù è vivo in un mondo dove accendi la televisione e tutto senti, tranne che un messaggio di speranza. In un mondo dove ci sono conflitti e guerre, nel bel mezzo della crisi economica, ma ancora di più nel bel mezzo della crisi morale che stiamo vivendo, tra aborti, tra teorie genderless, tra inganni, tra truffe, chiesa. C'è speranza perché Dio comunque c'è, perché Dio comunque è vivo, perché Dio comunque è all'opera nella tua vita, davanti a quello che può essere una situazione che ti sembra impossibile, davanti a quella malattia che ti è caduta addosso senza preavviso, davanti a quel matrimonio che non sta andando come tanto avevi desiderato, io oggi ti voglio dire che c'è speranza per te. E questa speranza si chiama Gesù. Amen? Amen? E siamo grati per questo, ci crediamo davvero. C'è una speranza vera, che non è un "ma io speriamo che me la cavo". I credenti, i discepoli di Cristo, non sono chiamati a dire "ma io speriamo che me la cavo". Piuttosto sono chiamati e hanno la possibilità di dire "no, io ce la faccio. No, io questa tempesta la attraverso e arrivo all'altra riva, perché so chi c'è nella mia barca, so che io non sono da sola, so che io non sono stato abbandonato, so che Gesù è insieme a me e io l'altra riva la raggiungo". C'è speranza questa mattina. Amen? Amen. È così, perché Gesù vive. E Gesù è all'opera, che questa mattina noi possiamo essere animati da uno spirito diverso, da quello che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, che non è uno spirito che dice "ma non lo so, è tutto fuori controllo, speriamo che ce la caviamo in un qualche modo", ma è uno spirito che dice "no, io all'altra riva ci arrivo, no, questa vita si può vivere benissimo perché la mia speranza non mi abbandonerà mai e ha un nome ed è Gesù". È chiaro, lo sappiamo, che la vita è fatta di alti e di bassi. È vero? Non è un viaggio sempre semplicissimo. La vita è fatta di stagioni belle e meno piacevoli. La vita è un susseguirsi di tappe. E alle volte queste tappe sono caratterizzate da delle battute di arresto, da degli impedimenti, da delle cose che non avevamo previsto, che ci cadono addosso. Per riprendere le parole di Gesù, la domanda non è se il vento e la pioggia si abbattono contro la tua casa. La domanda è: quando il vento e la pioggia si abbattono contro la tua casa, come reagirai? Quale sarà la tua risposta? Perché sapete, essere credenti, discepoli, non ci rende esenti, è vero, da queste battute di arresto, non ci rende esenti da delle difficoltà, da delle delusioni, da delle sofferenze. Non è se vengono, è quando vengono. In quanto figli e figlie di Dio, in quanto discepoli di Gesù, noi come reagiremo? Come reagiremo? Perché queste circostanze possono o farci aggrappare a Gesù di più, oppure possono dominarci, possono fermarci, possono portare scoraggiamento, possono consumarci. Quale sarà la nostra risposta? Io speriamo che me la cavo. Proverbi 13 al verso 12 dice questo: la speranza insoddisfatta fa languire il cuore. Che significa languire? Significa lo rende privo di forze, lo indebolisce, lo abbatte, lo fa venir meno. La speranza insoddisfatta fa soffrire, fa languire il cuore, ma il desiderio realizzato è un albero di vita. E allora la domanda, che ormai sono forse anche tre messaggi che ho condiviso con voi, questa è sempre la domanda che io mi pongo e ci pongo: come sta il nostro cuore? C'è qualcosa, c'è qualche speranza insoddisfatta che lo sta facendo languire, che lo sta indebolendo, che sta facendo venir meno la nostra fede? Quali sono quelle battute d'arresto, quelle stagioni di attesa dove Gesù sembra che sta rispondendo a tutte le preghiere di tutti i credenti di tutto il mondo, tranne che alla mia? Quali sono quelle difficoltà? Qual è quel referto medico? Qual è quella perdita? Qual è quella preghiera in attesa che sta facendo languire il tuo cuore? Che ti sta portando a dire: è troppo tardi, non c'è più speranza, non è più il mio tempo, sono troppo vecchio, o sono troppo giovane, o semplicemente sono stanco, ho perso la speranza per quella determinata situazione, ho perso la speranza per quella determinata circostanza. Posso incoraggiarti questa mattina a non arrenderti, perché le tue emozioni possono raccontare una storia, perché le circostanze possono descrivere veramente un epilogo razionale. Però la Bibbia dice un'altra cosa. Però l'epilogo che la Bibbia ci mostra è un epilogo di speranza. Io non voglio fare da spoiler, però se hai letto tutta la Bibbia, alla fine che succede? Che vinciamo, è vero? Alla fine vinciamo, c'è speranza, c'è speranza. In Romani 5, al versetto 1 E lo leggeremo fino al versetto 5. Incomincia così. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. C'è speranza perché tu hai fatto pace con Dio, grazie a Gesù. Eri in guerra. Avevi voltato le spalle a Dio. E lì è vero che non c'era alcuna speranza. Ma attraverso Gesù c'è scritto che siamo stati giustificati, che abbiamo fatto pace con Dio, il nostro creatore. E questo, a prescindere dalle circostanze che stiamo vivendo, a prescindere da tutto quello che ci può attorniare, questo è costituente di speranza per me e per te. Amen? Mediante il quale Gesù, mediante il suo sacrificio, abbiamo anche ricevuto non solo la giustificazione, ma abbiamo anche ricevuto per fede cosa? L'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi. L'accesso a questa grazia, l'accesso al suo amore, l'accesso al perdono, l'accesso alla nuova identità che noi abbiamo ricevuto in Cristo, l'accesso a un nuovo destino eterno. C'è speranza! Nella quale questa grazia siamo fermi. E ci gloriamo nella che cosa? Nella speranza della gloria di Dio. E tu a questo punto mi puoi dire, va bene Noemi, lo so che una volta abbandonata questa tenda, una volta abbandonato questo mondo, lo so che c'è la speranza eterna. Non sono state le parole di Marta davanti a Gesù quando Gesù era andato per salvare Lazzaro e dice, vabbè Gesù, lo so che alla fine dei tempi ci sarà la resurrezione, ma io è adesso che volevo che Lazzaro resuscitasse, non domani. Non è il nostro atteggiamento certe volte. Però Romani 5 non è finito, perché continua e dice, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza produce esperienza, e l'esperienza cosa produce? Speranza. Ora, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Si potrebbe parlare per 6 anni solo di questo versetto, ma la speranza che qui ci viene descritta, la speranza che noi abbiamo nel sacrificio, nella vittoria che Gesù ha avuto per me e per te, è una speranza che non delude. E non è una speranza che ha a che fare solo ed esclusivamente con quello che verrà, con la nostra eternità. No, è anche una speranza che ci accompagna oggi, nella nostra afflizione, nelle nostre situazioni. Noi possiamo aggrapparci a quella speranza che qui c'è scritto non delude. Va bene, noi, però io sono stato deluso. Che deve essere, qualcosa deve essere andato storto. Io avevo questa speranza, però. Io ci ho riflettuto. E sapete, io credo che c'è una vera speranza e ci siano delle false speranze. E noi spesso queste le confondiamo. Quindi per capire bene che cos'è questa vera speranza che non delude, dobbiamo capire prima che cosa non è la speranza. E ve lo voglio dire, la speranza biblica, quella che Gesù descrive e quella che ci è venuta a dare, non è un semplice essere ottimisti. È vero? La speranza non è l'ottimismo, non è il guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, perché alle volte manco il bicchiere sta. Non è un semplice ottimismo. Certo è che essere ottimisti è bello e tutti quanti dovremmo sforzarci, è vero, di essere un po' più positivi. Tutti quanti conosciamo, sai, quella persona che è pessimista, cioè che bella giornata, però domani piove. Ehi, come stai? E ti guarda, e basta lo sguardo che tu ti penti di averglielo chiesto e dici, mannaggia, ma me lo devi raccontare da dietro dietro il fatto. La conosciamo, no? Quel tipo di persona, e lo sappiamo che cosa facciamo? La evitiamo. Una volta gli chiediamo come sta, poi non mi freghi più. È bello essere ottimisti e abbiamo tanto, per cui esserlo, è vero, ci fa vivere bene, ci fa vivere meglio. Tuttavia, l'ottimismo non è la speranza di cui stiamo parlando oggi. Come questo discorso non vuole essere un discorso motivazionale, ma vuole essere la predicazione della verità, della Bibbia. Quindi non stiamo parlando di, vabbè, pensa positivo perché sei vivo. No, no. Mettiamola così. Ci sono tre tipi di speranza. Li volete sapere? La prima, e vi sto per insegnare un aggettivo bellissimo. La prima è la speranza velettaria. Beh, adesso Noemi, non so se adesso il vocabolario che significa, ma la speranza velettaria è quella speranza vuota, quella speranza che si basa su dei semplici desideri, che però non è seguita da azioni per realizzarli, quei desideri. È la speranza che dice, ma spero che un giorno io vinca la lotteria. È quel tipo di speranza lì. Io e mio marito ci siamo iscritti ad affari tuoi. Qui lo dico e lo ammetto. Quindi ci potrete vedere in televisione presto. E abbiamo questa speranza. Io non ce l'ho la speranza di vincere 300.000 euro, perché la prima offerta, sicuro, sicuro. Però è una speranza così, è vuota. È quella speranza che dice, ma speriamo di non aver preso la multa dopo aver commesso un'infrazione. È quella speranza che gli studenti hanno sempre. Speriamo di passarlo questo esame dopo non aver studiato neanche A. È una speranza vuota. Sono dei semplici desideri. Spegni la candelina e esprimi il desiderio. Questo è. Non ci porta da nessuna parte quella speranza. Poi c'è invece un altro tipo di speranza che è legata a un'aspettativa. Un'aspettativa logica. Un'aspettativa causa-effetto. Non so, io pianto un seme, annaffio e spero, giustamente, che la pianta cresca. A me non è mai successo, però. E quella speranza che gli studenti hanno e dicono, io spero di andare bene a quest'esame, perché? Perché ho studiato. È una speranza diversa dalla prima, è collegata a una razionalità, una logica, causa e effetto. Questa speranza però è fondata sul risultato, è fondata sulla risoluzione di una situazione. E io penso che ci possa aiutare alcune volte, non sempre. Perché per quanto razionali e logiche possano essere le nostre aspettative, noi lo sappiamo che non va sempre proprio come pensiamo, come speriamo, come abbiamo pregato, come abbiamo desiderato. Il causa-effetto non è sempre così lineare nella vita vera, o no? prima che arrivasse Jacopo, ci sono stati 12 mesi di questo tipo di speranza. Una speranza causa-effetto. Non vado nei dettagli, però diciamo. Ogni mese avevo questa speranza logica, razionale, che però per 12 mesi è stata delusa. E quella delusione ha portato scoraggiamento, ha portato rabbia, ha portato invidia, ha portato dolore. Quella speranza che io avevo stava nel risultato, in quello che potevo ottenere, in quello che era logico che io ottenessi. Certe volte funziona, certe volte no. Quindi qualcosa mi dice che questa non è la speranza di cui Gesù ci parla. E questo mi porta al terzo punto, la speranza vera, quella che non delude, è quella certezza, che o vedo il risultato o non lo vedo, Gesù è all'opera. Questa è la vera speranza, che Gesù è all'opera sempre e comunque. Questa speranza non è basata su un'emozione, non è basata su un desiderio, non è basata sulla logica causa-effetto, ma sulla certezza del fatto che Dio sì può essere silenzioso, ma non è mai assente. Che Dio sì può metterci molto più tempo di quanto io abbia pensato, ma Dio è all'opera. Che Dio sì può anche non rispondere alle mie preghiere, ma Lui ha il meglio per me. Che Dio sì, forse da questa parte dell'eternità, non mi darà quello che il mio cuore desidera. Ma la promessa delle promesse, la salvezza, quella sì, quella è già adempiuta, quella è già da noi conquistata e dovremmo vivere in virtù di quello e poi tutto il resto. Amen? Amen? Questa è la vera speranza. Una speranza che non è basata sull'esito, ma è basata su una persona. Una speranza che non è basata sul cosa, ma sul chi. Su chi ci ha fatto quelle promesse. Su chi, a chi appartiene la nostra vita. Su con chi spenderemo la nostra eternità. Quella sì che è una speranza che non delude. Perché? Perché Gesù. Perché stiamo parlando di Gesù. E Gesù non delude. Mai. Questa speranza mi dice che Gesù non è mai in debito con nessuno, però è buono, è fedele. E quello che Lui mi dà oltre la salvezza eterna è un bonus. È la sua vita abbondante, caratterizzata da una speranza vera. Amen? L'ottimismo, questa è una citazione di un teologo contemporaneo, vabbè, tanto contemporaneo no perché è morto, però comunque è morto recentemente. Dice: l'ottimismo è un desiderio senza garanzia. La speranza cristiana è una certezza garantita da Dio stesso. L'ottimismo si fonda ad occhi chiusi sulla possibilità che le cose buone prima o poi arrivano. La speranza cristiana esprime la consapevolezza dei credenti che ogni giorno della nostra vita, qui e per l'eternità, appartiene a Dio. Ebrei 11:1 dice: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Sapete, io ho capito che la speranza e la fede sono intrinseche, vanno diciamo a braccetto, che noi non possiamo, per esempio, avere fede nel paradiso o nell'inferno, se non abbiamo la speranza che il paradiso esista. Non posso credere, avere fede in una guarigione se non spero che Gesù effettivamente quella guarigione la opererà. La speranza alimenta la fede. La fede mi porta all'azione. Speranza e fede vanno di pari passo. E la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere a Dio, perché uno deve credere che Egli è. Quindi se la speranza alimenta la fede, è abbastanza importante non perderla, perché questo potrebbe andare ad indebolire la nostra fede, e questo comporterebbe il non piacere a Dio, il non compiacere Dio. L'autore della lettera agli Ebrei ci invita in modo particolare nel capitolo 6 a non perdere la nostra speranza. Davanti alle situazioni difficili, alle stagioni di attesa, davanti ai silenzi di Dio, ci invita a stare fermi su quella speranza vera, sulla certezza di chi Dio è e che Lui è all'opera. O le vediamo o non le vediamo, i risultati, l'adempimento delle promesse. E nel capitolo 6 ci dà un esempio anche da emulare, di una persona che ha sperato contro ogni speranza, di una persona che davanti proprio a situazioni impossibili non si è arreso, non ha gettato la spugna, ha continuato a credere. Perché? Perché aveva speranza in chi gli aveva fatto quella promessa. Ed è questo che fa la differenza. Questa persona è Abramo, e lo leggiamo. Ebrei 6,13 dice: infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, Dio, giurò per se stesso, dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. La conosciamo la storia di Abramo, in Genesi c'è scritta, e vede Dio che promette ad un uomo di 80 anni una generazione, un figlio. Sapete, le promesse di Dio non hanno sempre molto senso, ecco perché sono divine. E non hanno un senso logico, ecco perché la speranza a causa-effetto arriva fino ad un certo punto. Non seguono la nostra razionalità, ma ciò non vuol dire che non si realizzeranno. Amen? Abramo aspettò con pazienza. Ora, io ho aspettato 12 mesi e stavo uscendo matta. Abramo ha aspettato non il tempo che ci abbiamo messo dal versetto 13 al versetto 15, ok, aspettò con pazienza e le promesse si sono realizzate. No, ha aspettato 20 lunghi anni. E in questi 20 lunghi anni non ha perso la speranza. Perché, ripeto, lui ha sperato in chi era l'autore di quella promessa. E l'autore di quella promessa non era un uomo che poteva mentire, che poteva deludere. L'autore di quella promessa è Dio. L'autore delle promesse che sono state fatte, che ti sono state affidate, è Dio. È il Signore. Non è un uomo. E qui non solo Dio fa una promessa, giura pure. Giura per se stesso. Non ho capito bene questo concetto, è molto grande. Però dice: infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro. E per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, Dio e il giuramento, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione. Noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti, che il nostro cuore possa trovare consolazione questa mattina. Nel fatto che è Dio che ha parlato al tuo cuore, è Dio che ti ha fatto quella promessa. E per Dio è impossibile mentire, andrebbe contro la sua natura. Il diavolo ti può cercare di convincere del contrario, è quello che ha sempre fatto dai tempi di Adamo ed Eva. Ha veramente detto Dio? Ti può convincere del contrario, ma la realtà rimane che Dio è giusto, che Dio non è un bugiardo, che non può mentire e che ha fatto con te un patto immutabile, un patto che non cambia, un patto che permane nel tempo, nelle stagioni belle e nelle stagioni brutte. Quando vedi l'adempimento e quando ancora non lo vedi, il suo patto con te è rimasto e rimarrà immutabile. Che il nostro cuore possa essere consolato da questo. Questa speranza la teniamo come un'ancora nell'anima, sicura e ferma. La prima domanda è stata: come sta il tuo cuore? Io adesso ci voglio chiedere: a che cosa è ancorato il nostro cuore? Qual è, chi è l'ancora del nostro cuore? In altre parole, in chi riponiamo la nostra speranza? È chiaro, siamo in chiesa e in coro avremmo dovuto rispondere: Gesù. Ma lo è davvero? Più che altro, lo è sempre. Il nostro cuore è sempre ancorato a Gesù, l'unica vera speranza. Lo chiedo perché molto spesso è così facile ancorarsi, rifugiarsi, trovare sicurezza in ciò che magari possiamo vedere. Tu l'ancora la vedi? No, è sotto, non la vedi. È più facile ancorarsi a qualcosa che ci può dare un piacere, una sicurezza, una garanzia immediata. Ma dove ci porterà questo? Quali saranno i risultati? La nostra speranza qui, e con questo concludo, è paragonata ad un'ancora. Ora, l'ancora ha due propositi, due funzioni. La prima è quella di impedire alla barca di andare alla deriva, di essere spinta da delle correnti, di vagare senza meta e senza controllo, anche quando il mare è calmo. Questo me l'ha insegnato mio marito. Se la barca non è ancorata, grande o piccola che sia, anche nella quiete, anche nella tranquillità, nella quotidianità, lunedì, martedì, mercoledì, la nostra barca, se non è ancorata, può allontanarsi, può iniziare a vagare senza meta e senza controllo. Una vita che non è ancorata a Gesù, alla sua volontà, prima o poi sarà trascinata da altro. anche nelle stagioni di quiete. Se non alimentiamo la nostra speranza in Gesù, se non curiamo la nostra relazione con Lui, se non ci innamoriamo di Lui giorno dopo giorno, sempre, sempre di più, se ci limitiamo ad aspettare le promesse così passivamente, o se viviamo una vita spiritualmente tiepida, dove la preghiera e l'adorazione sono le attività della domenica, dove il servire è un optional, dove il dare la decima è solo se mi avanza qualcosa, dove Gesù non è il tesoro più importante della nostra vita, noi saremo trascinati da altro, da distrazioni, da altre priorità, da pensieri non sottomessi, dal peccato. Anche nella quiete, il Signore ci invita a rimanere sobri, vigili, a vegliare, a riconoscere Gesù come ancora della nostra vita. La seconda funzione dell'ancora è quella invece di tenere proprio salda la barca, ferma la barca, nel bel mezzo della tempesta. E io non lo so quale tempesta stai vivendo o se la stai vivendo. Però io ti voglio incoraggiare, per piacere, mantieniti ancorato a Gesù. Mantieniti stretto a Lui e la tua barca vedrà l'altra riva, arriverà all'altra riva dove ci sarà gran bonaccia. Davanti alle onde della delusione, alle onde della sofferenza, contro il vento della malattia, contro il vento della paura, contro il vento, contro gli scogli della preoccupazione, del dolore fisico o del dolore emotivo, per piacere, resta ancorato a Gesù, a quella speranza che è vera, che non è basata sull'esito, ma è basata sulla persona. E potrai anche non guarire. Potrai anche non vedere quella quiete tanto desiderata. Potrai anche non vedere quella conversione per la quale stai pregando da tanto tempo. Potrai non vedere, forse, l'adempimento della promessa da questa parte dell'eternità. Ma dall'altra parte dell'eternità tu hai una speranza che non delude, che non deluderà mai. Che la nostra prospettiva possa aprirsi. È Gesù la nostra speranza. È a Lui che noi ci affidiamo. E poi sceglie Lui che cosa fare. La nostra scelta invece è quella di rimanere ancorati a Lui, che non ci delude. C'è una canzone che dice, e vi prego di chiudere gli occhi, che possa essere una preghiera per noi. Ho questa speranza come ancora della mia anima. Nel bel mezzo della tempesta, io resterò saldo in te. Il tuo infinito amore spazza via ogni paura. In ogni cosa, nella tempesta e nella quiete, io scelgo di fidarmi di te. C'è speranza nella promessa della croce. Hai dato tutto per salvare il mondo che ami. E questa speranza è l'ancora della mia anima. Il mio Dio è immutabile, irremovibile. Il tuo nome, Gesù, è più alto. Il tuo nome, Gesù, è più grande. Tutta la mia speranza è in te. La tua parola è certa. le tue promesse sono ferme. Tutta la mia speranza è in te. E forse oggi tu sei qui e riconosci che devi ancorare la tua anima a Gesù. Riconosci che alcune tempeste, alcune difficoltà ti hanno fatto perdere la speranza, che non hai più quella certezza che Dio, anche se in silenzio, anche se in modi che non comprendi, sta operando. Hai riconosciuto oggi che stai cadendo nel dubbio, nella rassegnazione, e riconosci l'urgenza di ancorare la tua anima a Gesù, a quella roccia. Oggi puoi scegliere di dire: la tempesta c'è, ma io scelgo di fidarmi di Gesù. Io scelgo di rimanere fermo in Lui. Io voglio ritornare da Lui. Oggi puoi scegliere, anche nella quiete, che rimarrai ancorato a Gesù, che non cadrai nell'automatismo, nella religione, non abbasserai la guardia, che continuerai a ricercare la presenza di Gesù nella tua vita dal lunedì all'altro lunedì, a curare la tua relazione con Lui, a pregare, a leggere, a digiunare. Continuerai ad essere saldo nella sua presenza, fermo nelle sue promesse, fermo nella sua potenza. Oggi, Chiesa, possiamo scegliere di ancorare la nostra vita a una speranza che non delude e che ha un nome, e il suo nome è Gesù. E possiamo fare questa scelta, questo passo, oggi anche attraverso la cena del Signore che andremo a vivere tra pochi istanti. Sapete, la cena del Signore rappresenta visivamente, simbolicamente, con il sangue, con il vino e con il pane, quel patto immutabile che Dio ha fatto con noi in Cristo Gesù. E noi lo ricordiamo e lo celebriamo. Celebriamo che possiamo avere quella speranza in Gesù, immutabile. E partecipando oggi, puoi fare pure tu un patto con Gesù. E puoi dire: nella quiete, nella tempesta, io rimarrò ancorato a te. Tu sei la mia speranza che non delude. E non mi voglio allontanare mai da te. E se mi sono allontanato, voglio ritornare da te. Quindi viviamo questo momento proprio come sigillo, se vogliamo, di quello che abbiamo ascoltato. Se non sei battezzato in acqua da adulto, allora puoi vivere questo momento ugualmente, in maniera intensa, però dal tuo posto, pregando e adorando Gesù. Se invece sei battezzato, partecipa alla cena del Signore, non con leggerezza, con automatismo, ma facendo un patto con il Signore, celebrando il suo patto e facendone uno tu. Amen? Quindi vogliamo alzarci e, Signore, io benedico il pane, benedico il vino, benedico questo momento, che possa essere un atto di adorazione, che possa essere vissuto profondamente e in maniera solenne. Grazie Gesù perché ti sei dato completamente per la nostra salvezza, per il perdono dei peccati. Grazie perché il tuo sacrificio e la vittoria su quella croce dà speranza, dà una speranza vera alle nostre anime. Sei la nostra ancora, Gesù, e a te vogliamo rimanere ancorati, saldi e fermi. Amen. Possiamo partecipare.